e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno e benvenuti, ciao Deborah. Buongiorno. Oggi siamo tornati insieme e apriamo questa nuova puntata di Cuore Denari. Sei contenta? Altro che, guarda che ieri è stata dura, ormai qua la coppia quando scoppia non va bene. È vero. Senti Deborah, io vorrei, l'avrei sicuramente letto e vorrei condividerla anche con le nostre vorrei capire amiche. Che taglio di salute vuoi dare a questa notizia. No, perché allora lui è un bel pezzo d'uomo. Esatto, per dirla così. Tanto in per dirla alla francese. Politically correct. E Daniel Craig. Che ha rifiutato per 88 milioni di euro, non so che cifra, non lo so, comunque tanta roba. Per noi è tanta roba, sì. Di interpretare di nuovo James Bond. Allora, possiamo leggere e raccontarcela in mille modi, ma non vogliamo entrare nel merito. Ma vorrei chiedere ai nostri ascoltatori, se sei d'accordo, quella volta in cui hanno fatto una rinuncia per un motivo di cuore o per un motivo di denari. Quindi scrivetecelo e raccontatecelo. Forse c'è un piccolo Daniel Craig in ciascuno di noi. Ma chissà, sai che stavo pensando? Che magari con tutto quello che si è guadagnato precedentemente, forse ha pensato, è arrivato il momento di godermi un po' la vita, mi faccio una vacanza lunga quest'anno, magari verrà proprio in Italia. Pensa che stamattina sono stati diffusi alcuni dati di casevacanza.it. Il nostro paese continua ad essere gettonatissimo dai turisti stranieri, anche grandi attori e personaggi di spicco trascorrono le vacanze estive spesso in Italia, e questa è una delle tante notizie che daremo nella nostra ricchissima rassegna stampa. Via! Allora, apriamo la rassegna stampa di cuore di oggi con una notizia che arriva da Mosca, dove la Commissione per la tutela della salute della Duma, che è un'assemblea di rappresentanti, ha proposto di introdurre un certificato per gli sposi, verificando prima del matrimonio la capacità riproduttiva dei futuri coniugi. Nei paesi industrializzati, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'infertilità riguarderebbe il 15-20% delle coppie. Tra i fattori di rischio, naturalmente oltre all'età, uno stile di vita poco attento. Su questo tema vi segnaliamo il post di Salute Uomo, il nostro appuntamento mensile dedicato proprio alla salute maschile, firmato da Andrea Salonia, dove si parla proprio di infertilità maschile. Come anticipato, tra i nemici ci sono il fumo di sigaretta, il consumo di alcol e il peso, quindi è importante fare attività fisica, curare un po' la dieta e soprattutto ci sono degli alimenti da privilegiare: frutta, verdura, legumi, cereali integrali e pesce azzurro ricco di omega 3 sono tutti alimenti che sono stati associati a una migliore motilità degli spermatozoi. Queste raccomandazioni valgono naturalmente anche per gli adolescenti, e proprio di adolescenti e fertilità parleremo giovedì nell'appuntamento mensile di Salute Uomo, e ne parleranno anche gli andrologi al congresso nazionale a Stresa dal 28 al 31 maggio. Dalla Russia torniamo in Italia, dove è partita la campagna Apri la bocca, apri gli occhi. È un'iniziativa dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani dedicata alla prevenzione dei tumori del cavo orale, perché l'incidenza complessiva è in un aumento, ma la buona notizia è che la prevenzione e soprattutto una diagnosi precoce sono capaci di garantire uno standard di sopravvivenza dell'80%. Però è importante aprire gli occhi, quindi se avete delle micro lesioni delle mucose in bocca, quindi che persistono oltre 15 giorni, questo è un segnale di attenzione, oltre alla presenza di ulcere, placche bianche o rosse. Quindi invece che aspettare che passino, bisognerebbe rivolgersi ad un esperto. Quindi chi ha tempo non aspetti tempo, c'è l'Oral Cancer Day fino al 24 giugno, uno screening odontoiatrico gratuito, basta contattare il sito e vedete i punti e prenotate una visita. Il sito è oralcancerday.it. E per chiudere una curiosità, molti genitori già lo sospettavano da tempo, ora arriva la conferma della scienza: il pianto dei bambini manda in cervello il tilt, perché lo fa funzionare proprio diversamente dal solito. In un articolo gli studiosi spiegano che il pianto dei piccoli può, pensate, alterare il modo in cui gli adulti, mamma e papà, pensano e agiscono. Ma neogenitori, non vi preoccupate, c'è Cuore Denari sempre con voi, e quindi anche una buona notizia: il pianto è una vera e propria lingua, ha i suoi codici, i suoi significati, basta saperli decifrare, perché ogni pianto nasconde un significato preciso. Ad esempio il pianto da fame inizia piano e poi sale, quello da dolore invece parte subito in quarta. Sul nostro sito potete riascoltare un'intervista con la nostra esperta del Bambino Gesù di Roma, che vi aiuterà a decifrare il pianto del vostro bambino. Andiamo adesso alle notizie di denari. Cominciamo come al solito con la borsa. Dopo una partenza fiacca, la seduta negativa di ieri, oggi le borse europee decidono invece di recuperare terreno. Abbiamo un rialzo di 1,5 punti a Piazza Affari sul FTSE MIB, rialzo di 1 punto a Parigi. Francoforte più 0,67%, Londra più 0,48%, l'euro è sotto 1,12 rispetto al dollaro. Stanno andando stamattina molto bene i titoli del settore bancario. Ieri ricordiamo però che è stata una giornata molto negativa per Piazza Affari per lo stacco dei dividendi che ha riguardato 20 società sulle 40 del FTSE MIB. Oggi bene Monte dei Paschi più 4, Pop Emilia Romagna più 3,5 punti, Unicredit più 3,5 punti. Oggi CDA straordinario, presumibilmente per formalizzare il ribaltone ai vertici, ma non vi dico altro perché fra un po' con il nostro Marco Ferrando del Sole 24 Ore faremo un punto della situazione sul sistema bancario italiano, cosa bolle in pentola. Se avevate intenzione di prendere un treno tra oggi e domani, fate attenzione perché è previsto a partire dalle 21 di stasera fino alle 18 di domani uno sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato, proclamato da alcune sigle sindacali autonome. Lo ha fatto sapere la società, sottolineando che nel corso dello sciopero sarà però assicurato il collegamento fra Roma Termini e l'aeroporto di Fiumicino con il Leonardo Express. Garantiti inoltre i treni elencati nella tabella dei convogli previsti in caso di sciopero per i regionali Trenitalia. Ha fatto sapere che sarà impegnata ad offrire un adeguato livello di servizio anche al di fuori della fascia oraria di maggiore frequentazione, durante la quale sono garantiti per legge nei giorni feriali servizi minimi. Alcuni intercity e alcuni convogli regionali che non rientrano fra quelli garantiti potranno essere però cancellati, quindi fate attenzione, o limitati nel percorso. Le famiglie italiane recuperano timidamente un po' di ottimismo rispetto al futuro. Emerge tutto ciò da una rilevazione, quella dell'indice di solidità economica delle famiglie italiane, elaborato da Confesercenti e SVG. È una rilevazione che misura su una scala da 1 a 100 la solidità economica percepita dalle famiglie italiane. A maggio l'indice è tornato sopra quota 57 dopo lo stop, a quota 57 dopo lo stop di febbraio. Ma per un nucleo familiare su due la situazione finanziaria viene ancora considerata insoddisfacente. E tra l'altro, per quello che riguarda appunto invece la sensazione di essere in una condizione di ripresa economica, gli italiani a quanto pare tornano a sentire la ripresa, e a guidare il risveglio della fiducia nell'opinione pubblica sarebbe il movimento di ripartenza dei consumi. Gli ottimisti battono i pessimisti in questa rilevazione. Il 31% delle famiglie prevede una crescita dei consumi nei prossimi 6 mesi. Ne parlavamo prima a proposito delle scelte di vacanza potenziali, presumibili, di Daniel Craig. L'Italia si conferma una meta ambita per le vacanze estive, lo dimostrano i dati sugli affitti turistici. Proprio pochi minuti fa è stata diffusa questa rilevazione di casevacanza.it. Il 17% di tutte le prenotazioni di case vacanza per la primavera e l'estate arrivano dall'estero. I più numerosi in arrivo sono i tedeschi, seguiti dai francesi, dagli svizzeri. Non mancano però prenotazioni anche dai Paesi Bassi, Gran Bretagna, Belgio, Spagna, eccetera. Quello che ci ha colpito sono le località preferite che appunto gli stranieri vanno a visitare in Italia. Amano molto il Salento e quindi, tanto per così citare qualche paese, amano Melendugno, che io non conoscevo, poi amano Bellaria e Egea Marina, ovviamente Firenze. Queste per quello che riguarda le preferenze dei tedeschi. Gli inglesi invece alternano mete popolari con centri meno noti, da Gallipoli a Bologna, da Palau a San Teodoro, fino ad arrivare a piccoli comuni come Genga, in provincia di Ancona, dove ci sono, non so se le conosci, le grotte di Frassassi. Non lo sapevo, mi devi portare. Esatto. L'ultima notizia, solamente segnalo una delle nostre iniziative di educazione finanziaria. Invito come sempre gli ascoltatori a segnalarcele se ce ne sono sul loro territorio. Questa si svolgerà sabato a Reggio Calabria alle 10 presso la sala convegni di Confindustria, il valore del risparmio fra educazione finanziaria e tutela degli investitori. Si tratta di un salotto finanziario, non perdetelo. Give me five. All right. Allora, datemi il 5, partiamo dal 5, 5 porzioni di frutta e verdura, ne parliamo subito dopo le informazioni sul traffico. Partiamo da una ricerca molto interessante che ci racconta che cosa devono mangiare i nostri figli, soprattutto gli adolescenti, per investire in salute. A tra poco. cuore e denari. La prevenzione si sa comincia a tavola, l'abbiamo detto tante volte, o meglio, Deborah, qualche giorno fa abbiamo fatto ancora un passo indietro. La prevenzione inizia nella pancia della mamma. Quindi mamme all'ascolto, con mi Filippo raccomando. Esatto. Allora, noi oggi torniamo a parlare di prevenzione. Perché? Perché arriva dagli Stati Uniti uno studio che porta la firma dei ricercatori di Harvard e che ribadisce in particolare l'importanza di garantirsi sin da giovani un consumo adeguato di frutta. Vedo già le facce dei nostri ascoltatori, delle mamme, dei papà, degli adolescenti che diranno sì, spiegami come far mangiare la frutta e la verdura al ragazzino. Va bene, e noi ci proviamo. In linea con noi abbiamo il professor Claudio Borghi, direttore dell'unità operativa di medicina interna al Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a voi e grazie sempre dell'invito. Professore, questo studio di cui parliamo oggi è un lavoro dai grandi numeri che si è svolto in un arco di tempo molto ampio. Per questo vogliamo raccontarlo agli amici di Cuore Denari. Poi daremo anche dei trucchetti per trovare il modo per far mangiare la frutta, soprattutto la frutta e la verdura, dura agli adolescenti. Certo, è uno studio di grandissima rilevanza proprio perché, come diceva lei, la durata dell'osservazione è stata lunghissima. Questo peraltro si inserisce in una ricerca di respiro molto più ampio, questa Nurses Study, che è stata fatta negli Stati Uniti esclusivamente su personale degli ospedali, prevalentemente infermiere, la popolazione era soltanto di sesso femminile, all'interno del quale si sono studiati molti degli aspetti della prevenzione cardiovascolare ottenendo dei risultati straordinari. Sì. In questo caso in particolare credo che l'idea geniale sia stata quella che nella logica di valutazione progressiva di queste di questi soggetti, non possiamo dire pazienti, si è cercato di comprendere quale fosse stata la loro alimentazione durante l'età adolescenziale per vedere se questo era correlabile con alcuni aspetti della loro vita futura. E da questa analisi, peraltro pianificata, è uscito questo dato assai interessante che correla l'elevato consumo di frutta durante l'età adolescenziale con una ridotta incidenza di neoplasia del seno. Quindi sicuramente è un dato di grandissima importanza. E in questo studio, professore, si parla in modo specifico di mele, banane, uva. Certo. Quindi è la frutta che fa la differenza. Lo studio la mette in relazione un consumo di frutta nell'adolescenza protegge le ragazze dal tumore al seno. Certo. Ma si insiste proprio sul consumo di frutta in età dell'adolescenza. Che cos'ha di particolare in più e di diverso rispetto alla verdura? Tra l'altro è più gradita la frutta rispetto alla verdura tra gli adolescenti. Indubbiamente il discorso è un discorso assai interessante, fra l'altro che si inserisce in una logica crescente che voi avete toccato più volte, che è quella della prevenzione nei bambini, comunque sì, nell'età adolescenziale. Lei ha detto molto giustamente il problema della prevenzione che incomincia già durante la gravidanza, ed è assolutamente vero. Noi oggi abbiamo la certezza che ciò che avviene nei primi anni di vita poi abbia una ricaduta a distanza, e anche in questo caso l'aspetto è molto importante. Il dato è interessante perché la frutta contiene fondamentalmente un aumento della concentrazione di quei magici antiossidanti, che sono sostanze che sono in grado di interferire in maniera favorevole con tutti i meccanismi potenzialmente dannosi. Quindi il primo dato che è emerso è quello della prevenzione cardiovascolare, perché era anche più facile da ottenere stante le dimensioni del problema cardiovascolare. Oggi si stanno affacciando altre evidenze importanti, e questa evidenza che coinvolge la prevenzione delle malattie neoplastiche, fra l'altro una malattia così insidiosa come la neoplasia del seno, rappresenta sicuramente un grande abito di speranza per il futuro. Professore, allora adolescenti, andiamo forte sulla frutta, naturalmente certo, dobbiamo inserire anche la verdura, protezione cardiovascolare, protezione anche nei confronti dei tumori, al seno lo ribadisce la ricerca, ma in linea generale lo sappiamo, un consumo adeguato di queste 5 porzioni di frutta e verdura ci ripara da una serie di danni futuri, e quindi giochiamo e puntiamo sulla prevenzione. Possiamo farlo in qualunque momento della vita, facendo dei piccoli cambiamenti al nostro stile alimentare. Allora, quando parliamo di porzioni, arriva sempre il messaggio: ma che cosa intendete per porzioni? Intanto io chiedo ai nostri ascoltatori, se vogliono intervenire, quanta frutta e verdura riuscite a mangiare o a far mangiare i vostri figli e il vostro compagno all'800 24 00 24, e come vi organizzate. Professor Borghi, organizziamoci con lei. Quando parliamo delle 5 porzioni, non c'è una grammatura stabilita, è un po' a spanne. Certo, non c'è una grammatura stabilita perché non esiste un sistema di dosaggio micrometrico preciso, cioè noi non sappiamo esattamente, a parte il contenuto ovviamente della frutta e della verdura, la composizione, ma non sappiamo esattamente qual è la quota che con precisione arriva a raggiungere un certo bersaglio, così come avviene per i farmaci, per cui per i farmaci lei può stabilire un dosaggio e le conseguenze di questo dosaggio. Con il cibo diventa più difficile, perché poi dipende naturalmente anche dallo stato di maturazione del cibo, il fatto che essendo qualcosa di biologico che ha una sua evoluzione cambia nettamente le sue caratteristiche. Quindi in termini forse spannometrici, ma io vorrei dire più tradizionali, noi possiamo valutare queste porzioni fondamentalmente sulla base di ciò che siamo in grado di ingerire, tenendo conto ovviamente di una comparabilità in termini di volume. Quindi una grossa mela varrà due mele di minori dimensioni o varrà fondamentalmente tre albicocche. Un piatto di verdura varrà complessivamente come un frutto di grandi dimensioni o come due o tre frutti di piccole dimensioni. È ciò che noi facciamo ogni giorno quando mangiamo, la nostra vista, il nostro cervello funziona in questo modo. Noi possiamo affrontare due albicocche o alternativamente... Mi piace affrontare due albicocche, albicocca, a me! Una mela di maggiori dimensioni, possiamo affrontare un quarto di melone che rendiamo grosso modo corrispondente rispetto a un frutto rotondo e a piccoli semi di grandi dimensioni. L'importante è arrivare a 5, professor Borghi. Proprio per questo non si è stato fissato una grammatura. Primo, per impedire che chiunque si sedesse a tavola, a casa e al ristorante, avendo una bilancia con sé, dovendo tutte le volte pesare. E quello è veramente la morte di qualsiasi strategia di prevenzione. Imporre qualcosa di artificiale al di là delle nostre abitudini di vita. Il secondo è naturalmente che lasciare un pochino di eclettismo da questo punto di vista, secondo me, giova la riuscita. Lei ci ha letto nel pensiero, perché noi vogliamo aggiungere anche a queste indicazioni un po' di creatività, di gusto e di sapore. La stagione è ricchissima di frutta e di verdura, almeno stanno arrivando sui banchi del mercato delle proposte molto interessanti. Certo. E allora noi ci facciamo dare due idee, che poi ritrovate naturalmente sulla pagina di Cuore e Denari, da un grande esperto, Giuseppe Capanno, chef e autore del blog Gusto e Salute in Cucina. Voilà, buongiorno Giuseppe. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Allora, iniziamo da un tema facile, la frutta. Sì. Ecco. Allora, per la frutta so che devo essere molto sintetico, vi lascio due idee molto, molto carine. Una con le fragole, che sono completamente di stagione, e le banane. Basta prendere una banana, o comunque delle banane, tagliarle a metà per il lungo, quindi fare due mezze banane per l'orizzontale, svuotarle, schiacciare la polpa, mescolarla con un po' di gocce di succo di limone, un po' di vaniglia, se volete qualche dolcificante, ma anche no, dei pezzettini di fragole, ricoprire di nuovo diciamo, i gusci di queste banane che sono stati svuotati, macchiarli con un po' di gocce di fili di cioccolato sciolto e decorare magari con un po' di pistacchi verdi che danno colore. Magnifico! Adesso, vero, a Deborah noi siamo già qua pronti. E invece per la verdura, Giuseppe? Ah, per la verdura... possiamo scegliere, di stagione ci sono ottimi gli agretti, cioè la barba di frate, oppure gli asparagi. Con gli asparagi c'è una ricettina molto molto semplice e interessante. Sì. Gli asparagi scottati poco in acqua oppure a vapore per 3-4 minuti. Che rimangano croccanti. Sì. Esatto, tagliati per il lungo a striscionini, conditi con un po' di olio di oliva buono, un po' di erba cipollina poca, se non si aderisce molto. Si fanno nei piatti una sorta di nido, in cui nel mezzo si mette della mozzarella tagliata sempre a striscioline o a fettine, condita sempre con del buon olio di oliva, e se si vuole poi si può completare con dei pomodori. Magnifico. Sì. Giuseppe, tutto pronto? Perché con Deborah arriviamo allora. L'ora è giusta. Ecco, tra un'oretta siamo da lei. Grazie a Giuseppe Capanno, autore del blog Gusto e Salute in Cucina, e al professor Borghi. Noi andiamo a sentire il nostro GR, ritorniamo tra poco. Il segnale orario vi è offerto da... Vicinissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. Quale sarà il futuro di Milano? E di Roma? E Torino? Napoli? Bologna? Fino al 29 maggio non perdere la programmazione speciale di Radio 24 per le elezioni amministrative. Reportage, interviste, inchieste e approfondimenti quotidiani dei nostri inviati per capire, confrontare, interrogarsi e scegliere chi guiderà le nostre città. Da Roma a Milano, passando per Torino, Bologna e Napoli, viaggia con noi verso le elezioni più discusse del 2016. Segui le amministrative di Radio 24. Dai valore al tuo voto. cuore e denari. Dove eravamo rimasti? Ce ne abbiamo qua di storie in sospeso da raccontare come sono andate a finire. Per la verità questa non è che sia ancora finita, però abbiamo ritenuto questa mattina di ritornarci per fare un doveroso punto della situazione a beneficio dei nostri ascoltatori. Allora, ve lo ricordate il provvedimento sui mutui che qualche mese fa ha fatto scaldare gli animi come pochi altri provvedimenti, soprattutto in sede politica? In realtà, lo ricorderete, abbiamo cercato di spiegare come si trattasse del recepimento italiano di una direttiva europea, e poi però quel provvedimento passò alla ribalta della cronaca come la legge del pignoramento facile della casa di tutti gli italiani che non riescono a pagare il mutuo. Perché ci ritorniamo oggi? Perché dopo tanta teoria si sta entrando nella pratica. Il decreto legislativo della discordia, ricordo i parametri di legge appunto per chi fosse appassionato anche di questi termini, è il numero 72 di quest'anno, è stato pubblicato venerdì scorso in Gazzetta Ufficiale, quindi entro poche settimane comincerà a produrre degli effetti operativi, esattamente da quando entrerà in vigore, cioè dal 1 luglio, e quindi si applicherà ai contratti di mutuo sottoscritti a partire dal 2 luglio prossimo, mentre ai contratti di mutuo sottoscritti prima di questa data si continuano ad applicare le disposizioni già vigenti. Allora, siete pronti al rogito? Cosa dobbiamo sapere relativamente a queste novità? Vi segnalo intanto anche una cosa che non c'entra moltissimo, ma ci pare carino farvelo sapere. Esatto, che domani con il Sole 24 Ore è prevista una guida su tutti gli sconti fiscali legati ai lavori di ristrutturazione degli immobili. E allora, visto che siamo in piena stagione di dichiarazione dei redditi, magari a qualcuno è utile questo. Proprio come il calcio sui maccheroni. Esatto, no? È utile questo, anche questo riepilogo della situazione. Per quello che riguarda invece il tema mutui, allora a che punto siamo? Questa mattina è tornato a darci una mano uno dei nostri notai preferiti, notaio in Lodi Piercarlo Mattea. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Notaio Mattea, allora, io l'ultima volta l'avevo definita anche membro del Consiglio Nazionale del Notariato. Di Milano. E sì, infatti esattamente per la seconda volta, perché io voglio farlo salire di carica, allora auspico questa crescita professionale. Guardi che noi siamo un po' streghe, quello che diciamo si avvera. Ma ecco, siamo già ben rappresentati a Roma, io sto a Milano volentieri come streghe, dice. In quanto streghe siamo già ben rappresentati a Roma. Notaio Mattea, allora andiamo a spiegare un po' le novità proprio degli ultimi giorni, che naturalmente riguardano soprattutto le questioni legislative strette, no? Abbiamo la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, quindi entro poche settimane abbiamo la formalizzazione appunto del provvedimento, la piena operatività. Piena in realtà non tanto, perché le banche poi al loro interno devono attrezzarsi con tutti gli strumenti necessari per appunto rendere, come dicevo, operativo il provvedimento. Comunque, d'ora in avanti, chi non paga il mutuo per 18 rate rischia che la casa vada alla banca senza proroghe e mediazioni. È tutto così immediato, notaio? Non precisamente. Diciamo che questa nuova clausola potrà essere, come ha detto giustamente lei, inserita nei mutui a partire dal 2 luglio, quando entrerà in vigore il provvedimento che è stato pubblicato il 20 maggio. Poi esiste un periodo nel quale il Ministero dovrà fare i decreti attuativi. Ci sono 180 giorni di attesa, poi c'è il periodo per l'entrata in vigore di questi decreti, quindi prevedibilmente una clausola di questo tipo inserita in un mutuo stipulato il 2 luglio potrà diventare operativa attorno al febbraio dell'anno prossimo, se il cliente non paga il mutuo, quindi ecco, non è un'operatività immediata. Però in realtà, ecco, l'operatività sarà un po' lunga nel tempo, ma in realtà la clausola potrà già essere inserita nei mutui sottoscritti a partire dal 2 luglio, quindi esattamente che tipo di clausola sarà, notaio? Beh, in estrema sintesi si dirà, ovviamente con tutte le cautele previste dalla norma, quindi si dirà se la clausola è accettata dal cliente, se il cliente è stato assistito da un consulente indipendente, si dirà che in caso di mancato pagamento di 18 rate o comunque si accumula un debito pari all'importo di 18 rate, la banca può prendere la casa, non ne diventa proprietaria, questo sia ben chiaro, se no sarebbe il famoso patto commissorio che era vietato e rimane vietato, però la può immediatamente vendere senza passare attraverso la procedura dell'asta, quindi sarà una vendita piuttosto rapida e quindi la banca si potrà soddisfare del proprio credito. Come diciamo speculare misura a vantaggio del, se così possiamo dire, del cliente consumatore, anche se la casa venduta all'asta non sarà sufficiente per chiudere l'intero debito, il debito sarà comunque estinto se è stata inserita questa clausola. Ecco, a proposito di questa clausola, che è il punto sul quale stiamo insistendo, perché questa potrà essere inserita già a partire dai contratti firmati dal 2 luglio 2016 in avanti, però non sarà obbligatoria, no, notaio Mattea? Sarà facoltativa fra cliente e banca, ma secondo lei le banche spingeranno per farla sottoscrivere? Se devo dire una mia previsione molto personale, credo di no, perché questa clausola bisogna anche vedere un po' come è venuta fuori. E questa clausola nasce inizialmente con una proposta di fare soltanto 7 rate. Perché il 7 non è un numero a caso, perché già nella normativa previgente era previsto che il ritardo nel pagamento di 7 rate dà diritto alla banca di iniziare l'azione esecutiva, quella tradizionale ovviamente con l'asta. Si voleva semplificare questo percorso passando dall'asta alla vendita immediata. Poi giustamente le associazioni di consumatori sono insorte, i 7 mesi sono diventati 18. Io credo che ben difficilmente questa diventerà una clausola inserita in tutti i mutui. Secondo me sarà l'eccezione e non la regola. Non è particolarmente importante infatti, per le banche avere questo tipo di garanzia. Esatto, le banche hanno difficilmente interesse a far partire subito le procedure esecutive, e su questo aspetto ci siamo soffermati tante volte, ma dirò anche una cosa ulteriore: non è che perché entra ormai a pieno regime appunto la normativa, entra in vigore nei prossimi mesi, poi assisteremo a questi pignoramenti a catena da parte del sistema bancario. Facciamo anche attenzione a come giudichiamo le cose, a come raccontiamo i fatti. C'è anche da dire, lo segnalava anche il Sole 24 Ore negli ultimi giorni, ma in realtà ormai è una statistica ufficiale e abbastanza stabile da diverso tempo, il tasso di default sui mutui è in calo, per cui segnaliamo anche questo tema positivo. Non è che siano in crescita le famiglie che sono in ritardo con le rate del mutuo o in difficoltà, ce ne sono naturalmente, e per queste ci sono anche tanti strumenti in questo momento a disposizione prima che la banca porti via la casa. Detto questo, poi però tutte le novità ci sono e naturalmente le dobbiamo raccontare. C'è una parte importante, notaio Mattea: nelle disposizioni attuative di cui parlavamo poco fa, bisognerà avere una particolare attenzione e un particolare riguardo ai casi di eventuale stato di bisogno, di debolezza del consumatore, oltre agli obblighi informativi di correttezza del finanziatore. Tradotto in termini semplici, cosa vuol dire questo aspetto? Gli obblighi di informativa sono dati dalla previsione di un documento che si chiama prospetto informativo europeo standardizzato, che tutte le banche dovranno fornire ai clienti che chiedono mutuo, e che permetterà ai clienti di fare agevolmente il confronto fra la proposta di una banca e l'altra. Quindi se vi vorranno dare il PS, ecco, è questo praticamente l'acronimo di questo documento. PS, certamente. E l'attenzione alle particolari situazioni di bisogno potrà tradursi per esempio nell'introduzione di clausole, che peraltro in parte ci sono anche già adesso, che prevedano la sospensione per un periodo del pagamento o dell'intera rata di capitale e interessi, o anche solo della parte di interessi. Comunque delle previsioni che agevolino anche chi si trova in difficoltà a non trovarsi del tutto inadempiente e a poter riprendere un cammino normale del mutuo. Vediamo se intanto, prima di ripassare la linea al tema di cuore, riusciamo anche a sentire un ascoltatore all'800 24 00 24, perché vedo che qualcuno si è messo appunto in fila per poter intervenire. Ma notaio Mattea, una domanda che in realtà mi ricordo è arrivata anche frequentemente nelle altre puntate dedicate a questo argomento. Allora, 18 rate non pagate, la banca può fare il pignoramento veloce? Banalizzo naturalmente, per andare subito alla domanda al notaio Mattea. Molte famiglie pagano la rata del mutuo non mensilmente come faccio io, ma ogni 6 mesi, e lì come funzionerà praticamente? Diciamo che il testo della norma non lo dice, ma molto semplicemente si dovrà dividere per 6 la rata semestrale, ecco, perché la legge parla di debito pari a 18 mensilità del mutuo, per cui se io pago semestrale, vabbè, saranno 3 semestralità. Molto empiricamente dovremmo interpretarlo così. Certo, non saranno 18 semestralità, questo è escluso. Certo. Altre questioni da trasmettere ai nostri ascoltatori relativamente appunto a questa importante novità in arrivo per quello che riguarda la disciplina dei mutui in Italia, notaio? Perché io ho cercato di dare appunto le informazioni che possono essere rilevanti per i nostri ascoltatori. No, possiamo anche dire un'altra cosa, che in realtà prima che si verifichi questo stato di difficoltà che ci porta presumibilmente a prevedere che non riusciremo a pagare le rate del mutuo, ancora prima che scatti questo meccanismo, notaio, che cosa è possibile attivare dei meccanismi che ci sono, di fondi di quelli a cui accennavo prima, fondi di solidarietà che prevedono la sospensione parziale del pagamento può essere sia dell'intera rata sia della sola componente interessi. Le banche sono pronte a dare tutto questo tipo di informative e già in passato hanno funzionato in alcune migliaia di casi prevenendo il contenzioso. Certo. Ma altro consiglio che io darei, questa è quasi un po' una malizia. Ma insomma, a queste mi piacciono molto. Le malizie. Soprattutto lo darei a chi fa un mutuo per comprare la casa, che ovviamente è l'investimento della propria vita, però ha una ragionevole certezza che questo mutuo, per le sue condizioni, per il lavoro che ha, eccetera, riuscirà a pagarlo. A questo punto verrebbe quasi voglia di dirgli: amico mio, la banca propone, anche se non ti obbliga, ad accettare questo tipo di garanzie in più. Benissimo, la banca, quella dei 18 mesi ovviamente, sì. La banca a questo punto è più garantita, perciò il credito le costa meno. Tratta sugli interessi, accetti questa clausola che tanto sai che non scatterà, ma va a farti tirare via un decimo di punto, magari funziona, perché no? Vedi, malizioso ma molto concreto e pratico il nostro notaio Matteo. Questi sono i consigli all'acquare denari che mi piacciono. Esatto, consiglio di denari che evita di farci venire poi il coccolone al cuore. Esatto. Gianfranco da Brescia, velocemente, perché poi devo andare al collega del Sole 24 Ore Marco Ferrando e continueremo a parlare di banche. Sì. Buongiorno a lei, Telegrafico. Bravo. Allora, ma finché la casa non viene venduta, io sono sempre proprietario. La banca non ne posso usufruire dalla banca, magari non ne posso usufruire del bene, però mi tocca pagare, appunto perché la casa non è stata venduta, tutte le spese che ci sono, anche se non ci sono dentro. Questo è un... come si risolve questo problema? Notaio Matteo, è chiaro per lei? Mi pare che il lettore voglia sapere se nel momento in cui il scatta l'amorosità, magari in questi famosi 18 mesi, come funziona anche la gestione ordinaria delle spese della casa, ma penso che rimangano in capo al proprietario. Deve continuare a pagarle il cliente. Certo, se sarà in difficoltà a pagare la banca, sarà probabilmente in difficoltà anche a pagare le tutto spese. Il resto. Purtroppo avrà un creditore in più. Ecco, infatti. Quale dovrà fare Gianfranco, però siccome la sentivamo con un po' di difficoltà, magari ci scriva e così il nero su bianco lo possiamo così interpretare più facilmente. Notaio Matteo, la ringrazio per essere stata con noi. Magari rifaremo un'altra puntata nel 2 luglio per dare qualche suggerimento pratico anche su questa questione del così pattuire bene la quota interessi appunto con la banca dal 2 luglio in avanti per tutti coloro che firmeranno un contratto di mutuo alla luce anche delle nuove novità, delle novità normative. Grazie a notaio Matteo, vado subito a Marco Ferrando del Sole 24 Ore. Buongiorno. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, ci devi raccontare cosa succede oggi tra le banche italiane, perché è una giornata molto calda, soprattutto in casa Unicredit. Prima la chiamavamo l'istituto di Piazza Cordusio, adesso è l'istituto di Piazza Gae Aulenti, perché si sono trasferiti in questo meraviglioso palazzo di una meravigliosa piazza milanese, ma oggi sarà un pomeriggio molto caldo, non solo perché è tornato il sole a splendere su Milano, ma perché si decidono presumibilmente le sorti di Federico Ghizzoni, l'amministratore delegato, ma non solo. Allora, consiglio di amministrazione straordinario convocato per le 16. Che succede? Esattamente, consiglio di amministrazione per le 16, in cui si farà, diciamo, la conta, nel senso che premesso che è da mesi che emergono malumori crescenti da parte dei soci e anche del mercato, non dimentichiamo che il titolo ha perso il 40% da inizio anno, e molto più della media delle altre banche italiane, molti malumori che dovrebbero finire tutti sul tavolo del Consiglio alle 4. Probabilmente si chiederà al consigliere delegato, quindi a Ghizzoni, di fare un passo indietro e quindi di presentare le sue dimissioni, avviando così il processo di rinnovamento che, essendo Unicredit una banca vigilata BCE, SIFI, quindi banca sistemica, rinnovamento che non può avvenire in 448 con un blitz, ma serve una procedura, quindi un cacciatore di teste, quindi comitato governance, ci vorrà probabilmente qualche settimana. Allora, da qualche tempo si sta parlando per Unicredit di una necessità di fare un altro importante aumento di capitale, in alternativa al quale qualcuno dice potrebbe essere fatta una cessione di quote importanti, di partecipazioni importanti, per esempio quella in Fineco, in banca Pekao. È vero che Ghizzoni si oppone a tutto questo ed è questo il motivo per cui, fra le altre cose, appunto gli viene chiesto questo passo indietro, questo lasciare il suo incarico? Diciamo che questo è il motivo per cui di fatto è sopravvissuto fino ad oggi, nel senso che il messaggio che lui ha dato è: finché ci sono io l'aumento non si fa. Abbiamo studiato un piano industriale che prevede una generazione, diciamo, interna di capitale attraverso gli utili, attraverso una serie di altre azioni. Però questa strategia evidentemente non è più ritenuta sufficiente, per cui appunto si valuta un cambio di manager con probabile arrivo di aumento di capitale. anche se, e qui si apre tutta una partita molto complicata, adesso lo sguardo si sposta sugli azionisti. Non dimentichiamo che Unicredit, in questo processo di transizione delle banche italiane da vecchie banche a public company, ha un azionariato molto articolato. Ci sono ancora le fondazioni che sono corte di capitale, quindi sarebbero in difficoltà nel caso in cui a partecipare all'aumento di capitale. Ci sono soci privati, penso ad esempio Caltagirone, del vecchio, molto liquidi, che probabilmente potrebbero farlo. Ci sono molti fondi istituzionali, che tra l'altro esprimono un solo consigliere, i quali evidentemente ognuno farà le sue scelte. Quindi si sposta lo sguardo sugli azionisti ed è difficile immaginare quale che possa essere una sintesi, motivo per cui non è così scontato che il nuovo nome possa arrivare nel giro di poche ore, nel giro di pochi giorni. Tra l'altro, a proposito di aumento di capitale, che è sempre un'operazione straordinaria alla quale guardiamo con interesse, perché naturalmente è una richiesta che le società fanno al mercato di, appunto, capitale, quindi di soldi, agli azionisti sarà chiesto di partecipare, quindi anche ai piccolini, ai quali ci rivolgiamo noi, che investono sul titolo Unicredit in borsa, che peraltro adesso vedo cresce di 2,5 punti e sta tentando di riagguantare i 3 euro che aveva perso nei giorni scorsi, quindi una soglia che viene considerata psicologicamente molto importante e che si fa fatica a trattenere. Dicevamo, appunto, quanto aumento di capitale sarebbe necessario, leggevo Marco, da 4 miliardi se si fanno contestualmente anche le dismissioni di cui parlavamo prima. In assenza di dismissioni potrebbe essere necessaria un'operazione addirittura fra gli 8-10 miliardi, qua una o due manovre finanziarie, sono delle cifre pazzesche. Cifre pazzesche. Il Santander l'anno scorso nel giro di 24 ore ha chiuso un aumento da 7,5 miliardi, quindi ormai i valori di grandezza, gli ordini di grandezza sono questi. E come dicevi giustamente, 4-8 miliardi è un po' la forchetta del mercato. L'alternativa sono le cessioni, come chiedevi prima. Le cessioni evidentemente consentono di fare casse, consentono di aumentare il capitale, il che è positivo, ma riducono le possibilità di utili, perché chiaro, nel momento in cui tu cedi la controllata, diciamo, polacca piuttosto che Fineco, ti privi di asset che è vero ti danno subito del capitale, ma a tender ti danno anche un flusso costante di utili. Esatto. Fineco va bene, Pecao Fineco va bene, un vero gioiellino, sì. La banca turca va anche molto bene, che è un altro degli asset diciamo potenzialmente in vetrina. È una scelta non facile. Non dimentichiamo, peraltro, può essere interessante che proprio oggi, anzi nella notte, Moody's ha downgradato Deutsche Bank per dubbi crescenti sulle possibilità di rispettare il piano industriale, quindi, come dire, mal comune mezzo gaudio. Insomma, il tema bancario qua ce lo trascineremo ancora a lungo per tante tante settimane. Fra un po' devo raccontare la seduta di borsa, ti do ancora un minuto e mezzo di tempo, Marco, magari per farci il punto della situazione su tutto quello che bolle in pentola nell'altro versante bancario, che riguarda sempre ovviamente l'Italia. Allora, Banco Popolare e Pop Milano hanno approvato 10 giorni fa il piano strategico 2016-2019 del nuovo gruppo bancario, che deriverà dalla fusione delle due banche. Ma sulla fusione a che punto siamo? Allora, oggi proprio è previsto un ulteriore voto, dovrebbe essere l'ultimo, da parte dei due consigli, quindi CDA Banco Popolare, Consiglio di Gestione BPM, ultimo voto definitivo al business plan e alla bozza di statuto da mandare in BCE, bozza di statuto che dovrebbe contenere anche la composizione del primo consiglio di amministrazione della banca unica. Tema molto delicato, perché sappiamo che le questioni di governance nelle due banche, che sono ancora popolari, sono molto sentite, molte anime nell'azionariato, eccetera, eccetera. Quindi oggi è una puntata importante. Un'altra questione che mi viene da proporre sicuramente Veneto Banca è in corso in questi giorni il sondaggio del mercato rispetto all'aumento da 1 miliardo che dovrebbe partire nelle prossime settimane. Quello che si coglie è che il mercato non si strapperà, come dire, non farà la corsa ad accaparrarsi le azioni di Veneto Banca. Diciamo che deve intervenire di nuovo il super titano che regge le sorti della volta celeste? È probabile. Atlante. Esatto. Sempre Atlante qua, che è tirato per la giacchetta ovunque, ma insomma è nato per quello il fondo di stabilizzazione bancaria. A meno che, l'abbiamo scritto sul giornale un paio di giorni fa, non si trovi per il rotto della cuffia la via per un'integrazione. Sappiamo che Veneto Banca è messa un pochino meglio di Popolare Vicenza, ha bisogno di un po' meno capitale, questo la rende in teoria un po' più appetibile per un eventuale compratore. Ma UBI e BPR, UBI Banca e Popolare dell'Emilia Romagna, sono interessate o no a Veto Banca? Perché Victor Massià, che è un grande amico di Cuore Denari, ci ascolta spesso, l'amministratore delegato di UBI Banca, lo Nicoletta, so, io te lo dico perché lui me lo dice sempre, perché qualche volta ci capita di incontrarlo. In realtà dice: no, per carità, questo dossier non è aperto sul nostro tavolo, però voi continuate a scriverlo sul Sole, Marco, te e altri colleghi. Allora, allora qua, è chiaro che c'è un piano dell'ufficialità in cui le smentite non si contano. Però, se posso dire, i nubi sono ancora un po' scottati forse dal matrimonio naufragato col Banco Popolare, quindi ho l'impressione che se stanno trattando su qualcosa, cosa che non mi sento di discutere come ho scritto, lo smentiranno fino a un minuto prima. E vogliono mettere probabilmente nero su bianco delle condizioni vantaggiose per loro soprattutto. Grazie Marco Ferrando, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi. Giornata Grazie. Intensa per le banche italiane. Mamma mia. Allora, intanto vado di nuovo a riepilogare la situazione di borsa, dopodiché ti passo il microfono, io mi voglio riposare un po' ascoltando con grande attenzione tutte le cose interessanti. Questa quarta terapia. Molto bella la novità che ci racconta Nicoletta. Tra poco. JP Morgan Asset Management vi presenta... Cuore e denari. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni. Allora, abbiamo iniziato la nostra puntata di oggi parlando di prevenzione, un tema, lo sapete, che ci sta particolarmente a cuore perché è un investimento sicuro, no? È alla portata di tutti, lo stile di vita, ce lo ripetono, lo ripetiamo anche noi, può fare davvero la differenza. Pensate che è stato calcolato che se tutti adottassero uno stile di vita corretto si potrebbe evitare la comparsa di circa un caso di cancro su tre. Il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro ha concluso un'opera ciclopica, direi, di revisione di tutti gli studi scientifici sul rapporto tra alimentazione e tumori, a cui hanno collaborato più di 150 ricercatori, epidemiologi, biologi provenienti dai centri di ricerca più prestigiosi al mondo, e ne è uscito fuori un decalogo che abbiamo naturalmente linkato sulle nostre pagine, che noi vi invitiamo oggi ad andarla a vedere. Iniziate a prenderne visione, poi magari cercate di apportare dei piccoli cambiamenti. Possiamo e dobbiamo farcela. Noi ci proviamo tutti i giorni ad accompagnarvi, lo chiediamo anche l'aiuto ai nostri esperti, perché talvolta un buon consiglio vale quanto una medicina, se non di più, perché ci aiuta a prendere consapevolezza, una parola che usiamo spesso, del nostro ruolo nel mantenere la salute e nel prevenire la malattia invece che curarla. Allora, in questa ultima parte di trasmissione vorrei parlare di cura e voglio raccontarvi un dato che arriva dall'AIOM, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica, che dice che chi viene colpito oggi da una patologia oncologica ha ben il 70% di possibilità di guarigione, il 15% in più rispetto a 10 anni fa, e questo è merito anche naturalmente delle nuove terapie. Oggi, come anticipato, vogliamo parlare di quella che è già stata ribattezzata quarta terapia. Quarta perché? Perché viene dopo la chirurgia, la chemio e la radioterapia, è una, naturalmente parliamo di terapie contro il cancro, ma questa quarta terapia funziona con un meccanismo d'azione completamente diverso rispetto alle ultime due. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Michele Maio, direttore del reparto di immunoterapia oncologica dell'azienda ospedaliera universitaria senese, fondatore nel 2004 del NIBIT, che è un network italiano per la bioterapia dei tumori, e presidente della fondazione NIBIT, che è un punto di riferimento internazionale. Voglio sottolinearlo perché siamo felici di avere a Cuore Denari queste eccellenze. Benvenuto. Naturalmente insieme al suo gruppo di ricerca, così lo sottolineo perché so che il professor Maio ci tiene, dell'immunoterapia oncologica. Professore, grazie per essere con noi. Grazie a lei, grazie per l'invito, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Professore, allora l'ASCO, che è la più prestigiosa associazione scientifica di oncologi del mondo e anche quella che gode di maggior prestigio e riconoscimento da parte della comunità scientifica, ha messo l'immuno-oncologia, ovvero l'immunoterapia applicata al trattamento dei tumori, in cima all'elenco delle novità più importanti del 2015. Stiamo parlando di un'opzione terapeutica che utilizza una nuova strategia per combattere il tumore. Ce la racconta lei in modo semplice questa cosa così difficile che sembra, no, destinata a rivoluzionare l'approccio al cancro? Certamente, cercherò. Sicuramente l'ASCO che gli ha dato un importante contributo allo sviluppo dell'immunoterapia del cancro e ha certamente, come dire, messo il timbro dell'associazione più importante di oncologi medici che c'è a livello internazionale a questa nuova strategia. Questa nuova strategia, come diceva lei, sostanzialmente sfrutta il sistema immunitario del paziente per far sì che attraverso l'utilizzo di farmaci completamente nuovi esso possa essere in grado di tenere sotto controllo la malattia. Quindi sostanzialmente quello che noi facciamo, utilizziamo una nuova categoria di farmaci che non ha più direttamente la necessità di raggiungere le cellule tumorali per distruggerle, come ad esempio avviene per la chemioterapia, ma che agendo a livello delle difese immunitarie del paziente le stimola, le potenzia, facendo quindi sì che sia lo stesso sistema immunitario, quindi le stesse difese del paziente a tenere sotto controllo della malattia, sia nella sua progressione sia a lungo termine. Professore, allora, quindi mi faccia capire bene, voi correggete, o meglio rieducate il sistema immunitario a riconoscere le cellule tumorali, in pratica insegnate al sistema immunitario a non farsi gabbare dalle cellule tumorali che sono molto abili e intelligenti. Assolutamente sì, il nostro sistema immunitario, quello di tutti noi nel corso della nostra vita, è in grado di eliminare cellule trasformate, quindi cellule tumorali che fisiologicamente sono presenti o possono diventare presenti nel nostro organismo. Quello che noi dobbiamo fare è riuscire, nel momento stesso in cui le cellule tumorali hanno cambiato le loro caratteristiche, sì, e quindi non sono più in grado di essere riconosciute dal sistema immunitario, fare proprio quello che diceva lei, cioè rieducare il nostro sistema immunitario, quindi le nostre difese, a fare quello che sanno fare molto bene, cioè ad eliminare le cellule tumorali. E questo è sostanzialmente un obiettivo che noi possiamo raggiungere fortunatamente in una percentuale che diventa sempre più importante di pazienti. Professore, l'immunoterapia oncologica è stata applicata per prima al melanoma, i risultati sono stati molto positivi, ma questo approccio può essere impiegato in qualunque tipo di tumore. Allora, dopo il melanoma, quali tumori, professor Mai, avete trattato e che risultati avete ottenuto? Il melanoma cutaneo è certamente stato il modello tumore sul quale l'immunoterapia si è sperimentata per prima, e questo soprattutto perché fino a qualche anno fa per il melanoma non avevamo nessuna terapia che aumentasse la sopravvivenza dei nostri pazienti. Quindi è stato, fra i vari tipi di tumore che purtroppo è stato il primo tumore nel quale noi abbiamo applicato l'immunoterapia e abbiamo ottenuto i migliori risultati. È straordinario questo. Nel melanoma noi, per darle semplicemente un numero che può aiutare a capire quanto sia cambiata la storia, nel 2008 il 25% dei pazienti che avevano un melanoma metastatico sopravviveva a un anno. Adesso siamo a oltre il 70%, quindi vuol dire che noi abbiamo triplicato il numero di pazienti che sopravvivono alla loro malattia a un anno. Ma non è solo questo il punto. Il punto è che nel melanoma abbiamo più che raddoppiato la percentuale di pazienti che sopravvivono a 5 anni e a 10 anni. Quindi abbiamo più che raddoppiato quella che tecnicamente noi definiamo la sopravvivenza a lungo termine. Questo poi è l'obiettivo ovviamente principale che tutti noi ci poniamo quando abbiamo di fronte un paziente. Il melanoma è stato, come dicevamo, un modello, ma certamente il secondo tipo di neoplasia, il secondo tipo di tumore nel quale l'immunoterapia ha definitivamente mostrato la possibilità di incidere sulla sopravvivenza dei pazienti, è il cancro del polmone, in particolare la varietà squamosa del cancro del polmone, quindi un istotipo particolare che è legato prevalentemente al fumo, e in questi pazienti noi abbiamo ottenuto dei dati estremamente interessanti rispetto al trattamento con la chemioterapia. Quindi vuol dire che anche nel cancro del polmone, nei pazienti pretrattati, ma non entrerei nei tecnicismi organismi in questo momento, noi non utilizziamo più la chemioterapia, bensì utilizziamo l'immunoterapia. E quindi abbiamo praticamente nel melanoma indubbiamente sostituito la chemioterapia con l'immunoterapia, in alcuni tipi di cancro del polmone stiamo progressivamente sostituendo la chemioterapia con l'immunoterapia, perché funziona meglio e perché funziona con minori effetti collaterali. E questo è importante, quindi meno nausea, anche tutti gli effetti collaterali della chemio con l'immunoterapia oncologica sono bypassati. Sarà la cura del futuro e soppianterà la chemio anche nel trattamento di altri tumori, professore? Ma io in questo sono falsato dai miei 30 anni di lavoro nell'ambito dell'immunoterapia del cancro in questa mia risposta. Io credo che siamo realmente a un punto di svolta nel trattamento del cancro. Credo che l'immunoterapia, come diceva lei, in associazione alle altre strategie che abbiamo a disposizione, ci darà dei risultati sempre più importanti e soprattutto ci darà dei risultati sempre più importanti nell'aumentare la sopravvivenza dei pazienti. Questo è l'obiettivo ultimo che tutti noi abbiamo e questo è un obiettivo che raramente si riesce a ottenere nel lungo termine con la chemioterapia, mentre invece lo sappiamo bene, lo sappiamo dagli ultimi 30 anni di lavoro, che quando l'immunoterapia funziona riesce ad avere un impatto importante, significativo sulla sopravvivenza a lungo termine dei pazienti. Quindi siamo, a mio avviso, realmente che è un punto di svolta nel trattamento del cancro. Vi stiamo raccontando una buona notizia. Altro che, guarda, incidetela sulla pietra, perché su questa, adesso a parte la battuta che faccio sempre, ci teniamo particolarmente. Professor Maio, le faccio ascoltare la testimonianza di Antonello da Roma, che vuole proprio renderci partecipi appunto della cura che lui ha avuto sulla sua stessa pelle, nel vero senso della parola, appunto con l'immuno-oncologia. Antonello, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno. Benvenuto Antonello. Grazie. Allora, io sono stato diagnosticato di tumore di melanoma nel 2009 e ho subito un'operazione chirurgica. Successivamente ho iniziato i miei follow-up e ho avuto varie recidive sempre di tipo sottocutaneo, TAC di continuo, fino a quando purtroppo nel 2012... Sì. In una verifica di TAC è comparsa una delle metastasi polmonari e poi successivamente riverificate con una PET. Quindi una storia travagliata. E una Antonello, storia. Dalla regia mi segnalano che lei si è curato con la immuno-oncologia. Esatto. Fortunatamente, devo dire, ero diventato paziente dell'Istituto dei Tumori di Milano allorché si è verificato questa... Antonello, possiamo poi raccontare la storia, magari ci manda via mail e la condivideremo con i nostri esperti. Adesso lei come sta? Mandi un messaggio agli ascoltatori, perché poi le storie personali sono molto interessanti, mandi un messaggio. Antonello sta bene, ha vinto la sua battaglia, la ricerca l'ha aiutato e anche queste nuove terapie di cui parliamo subito dopo le informazioni sul traffico insieme al professor Maio, ma non ci fermeremo qui. Parleremo anche di che cosa si sta facendo e l'importanza di un sostegno psicologico, aiutare il malato a guardare in faccia la sua malattia, a rielaborarla, a pensare che la sua vita continua e che non è un malato, ma è una persona che nel corso della sua vita ha incontrato la malattia, che ha prodotto dei cambiamenti che vanno metabolizzati e affrontati. C'è un lavoro di equipe per sostenere queste persone, ne parliamo subito dopo le informazioni sul traffico. Cuore e denari. Siamo tornati insieme, parliamo di quella che è stata ribattezzata quarta terapia. Quarta viene dopo chirurgia, chemio e radioterapia, una terapia contro il cancro che funziona con un meccanismo d'azione completamente diverso, aiutando il nostro sistema immunitario così rieducando il nostro sistema immunitario. Ne stiamo parlando con il dottor Michele Maio. Dottore, nel centro che lei dirige stanno arrivando tantissimi messaggi di nostri ascoltatori, naturalmente, che vogliono saperne di più. Noi chiediamo di iscriverci e poi naturalmente chiederemo magari al dottor Maio se può dare delle ulteriori indicazioni. Voglio però partire da un dato: nel centro che lei dirige sono in corso 42 sperimentazioni. Sono tantissime, professore, è un centro all'avanguardia a cui giungono pazienti dall'Italia e dall'estero. Vorrei che lei desse un consiglio a chi, ricevuto una diagnosi, cerca per sé o per un familiare l'eccellenza. Gli messaggi che stanno arrivando è: sarà accessibile a tutti o solo a chi potrà permetterselo, si può arrivare col Servizio Sanitario Nazionale, come si fa ad arrivare direttamente lì senza perdere tempo. Professore, allora, tante domande, tanti casi diversi, lo sappiamo che quando la malattia entra nella vita di una persona e anche della sua famiglia, c'è la necessità, il desiderio legittimo di andare nei centri in cui si sa, no, si possono ottenere le migliori terapie. Professore. Ma allora, sono tante le domande. Certo. Prima di tutto, per quanto riguarda il melanoma e, come dicevamo, alcuni tipi di cancro del polmone, queste terapie sono ormai disponibili attraverso il Sistema Sanitario Nazionale. Il Ministero della Sanità, in particolare il Ministro Lorenzin, ha fatto un grandissimo lavoro in questo senso, l'AIFA ha fatto un grandissimo lavoro in questo senso, quindi noi abbiamo disponibile attraverso il Sistema Sanitario e quindi in tutte le oncologie italiane questi farmaci nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale. Come ricordava lei, ovviamente molti di questi farmaci, e come discutevamo inizialmente, sono ancora disponibili solo ed esclusivamente all'interno di sperimentazioni cliniche, che sono poi il nostro pane quotidiano. Lei ricordava il numero di sperimentazioni che abbiamo attive noi a Siena, questo non è casuale. Il nostro centro di Siena è partito con l'idea di avere a disposizione o di mettere a disposizione per i pazienti oncologici tutti i nuovi farmaci che si stavano sperimentando e che si stanno sperimentando nell'ambito del cancro e nell'ambito dell'immunoterapia. È nato proprio con questa mission. È nato assolutamente con questa mission, tant'è vero che nello scorso anno oltre il 70% dei nuovi pazienti che sono arrivati al nostro centro sono stati inseriti all'interno di una sperimentazione clinica. Ora, è chiaro che le sperimentazioni cliniche non sono disponibili in tutte le strutture, questo avviene in qualunque parte del mondo, ovviamente. Quindi il suggerimento primo da dare a un paziente è prima di tutto avere piena fiducia degli oncologi che hanno quel paziente, che lo hanno in carico. Secondo, discutere con gli oncologi che lo hanno in carico, quindi che stanno seguendo direttamente quel paziente, anche l'opzione di essere valutati per una sperimentazione clinica, che magari potrebbe non essere presente al centro dove quei pazienti sono seguiti, ma noi vediamo moltissimi pazienti che ci vengono riferiti, come diceva lei, da tantissimi altri colleghi che lavorano in tante altre oncologie in Italia e all'estero. Quindi questo, direi, è un percorso virtuoso che in qualche maniera i pazienti possono fare insieme ai loro oncologi, sapendo bene che le sperimentazioni hanno dei paletti molto stretti, quindi i pazienti devono avere delle caratteristiche ben precise. Per questo la figura dell'oncologo a cui affidarsi è cruciale. Assolutamente. E allora, mentre l'immunoterapia oncologica rieduca il sistema immunitario a riconoscere le cellule del tumore, nel vostro centro aiutate, dico nel vostro centro, ma non perché non voglia parlare di altri, perché in questo momento parliamo del centro, del reparto di immunoterapia oncologica dell'azienda ospedaliera universitaria senese, aiutate il paziente a rielaborare la malattia attraverso il sostegno di uno psicologo, sostegno che viene offerto sin dal momento della diagnosi, dell'incontro con il tumore. Allora saluto il dottor Ivan Parla, che è psico-oncologo del reparto di immunoterapia diretto dal professor Maia. Buongiorno dottor Parla. Sì, buongiorno a voi. Sì, effettivamente è proprio così. Noi cerchiamo di sostenere il paziente e la famiglia in questo percorso attraverso la malattia e la terapia, e cerchiamo di favorire proprio un passaggio fondamentale di accettazione della malattia. Questo anche perché, come abbiamo detto, le terapie immunologiche non mirano a farci guarire completamente dal tumore, ma tendono a tenere il tumore sotto controllo, quindi offrono anni di vita con una buona qualità della vita. A farlo diventare a cronicizzarlo, possiamo dire così, dottor Parla? Esatto, l'obiettivo è proprio questo, cercare di affrontare il cancro come affrontiamo altre patologie croniche, come il diabete per esempio, e per fare questo è necessario un cambiamento culturale ed immaginario personale. Non è sicuramente facile, ma il primo passo in questo cammino è accettare e fronteggiare questa malattia. Dottor Parla, ci racconta una storia tra le tante che avete accompagnato, che le è rimasta nel cuore, un'esperienza che in fondo ha cambiato anche lei e che credo possa aiutare chi ci sta ascoltando. Penso anche a chi non ha incontrato una malattia. Posso raccontare sicuramente la storia di Carlo, che è il nostro paziente, che io ho conosciuto nel luglio del 2013. Carlo iniziava allora una terapia sperimentale e arrivava da noi con una prognosi, diciamo, poco incoraggiante, e da lì questo paziente è comunque ripartito per l'ennesima volta dopo vari interventi chirurgici, ha affrontato in modo aperto questa malattia e i significati che aveva per lui e ha continuato anche a camminare, visto che Carlo è un appassionato di trekking. Alla fine della terapia, che ha dato ottimi risultati a distanza di un anno e mezzo, Carlo ha deciso di affrontare un obiettivo che si era posto fin da subito, ovvero intraprende il cammino di Santiago. Il cammino diventa un'occasione per lui di raccontare questa sua esperienza di malattia e di vita, e il cammino stesso diventa una narrazione per Carlo. Compie un percorso di 1100 chilometri dopo aver affrontato questo tumore, e la terapia e quindi diventa... questo racconta anche che la sua qualità di vita sta bene, perché per affrontare un cammino così impegnativo bisogna essere in salute, assolutamente, oltre che allenati. Sì. Assolutamente sì, Carlo ha fatto il cammino di Santiago lo scorso anno, ha ripetuto un altro cammino quest'anno, il cammino di Francesco, ancora più difficile perché è un cammino sugli Appennini, e il cammino per lui diventa quasi un riaffrontare le tappe certo, della malattia e della terapia, perché attraverso il cammino ritrova la fatica, lo sconforto. Lo scorso anno ha anche perso un amico mentre lui faceva il cammino, un amico malato di tumore che avrebbe voluto fare con lui questo cammino. Ha risentito il sostegno della famiglia, il sostegno degli amici e anche della nostra equipe, che è sempre stata in contatto con Carlo. Esatto. E questo cammino ora è diventato un diario e speriamo che diventi presto anche un libro. Questo perché per Carlo scrivere questo racconto è stata un'occasione vera e propria. Ecco, per si parla capire... spesso di medicina narrativa, ci sono dei lavori magnifici sulla medicina narrativa, che è anche una sorta di terapia. È assolutamente una terapia di per sé, nel senso che attraverso il racconto si entra in contatto con i propri vissuti, con le proprie emozioni. La medicina narrativa diventa un'opportunità per creare dei ponti tra quelli che sono i nostri significati e i significati dell'equipe. Quindi, e anche per altre persone che stanno intraprendendo lo stesso percorso. Abbiamo veramente una manciata di secondi per ringraziare il professor Maio e il dottor Parra di essere stati con noi, ma dottor Parra, chiudiamo veramente con un consiglio rapido, ma proprio dritto al cuore di chi ha ricevuto una diagnosi e forse anche una raccomandazione ai familiari, perché la diagnosi di tumore coinvolge tutta la famiglia. Il consiglio è sicuramente quello di affrontare questa malattia, fronteggiarla e non nascondere i significati che la malattia assume per noi. Ai familiari invece raccomandiamo in modo particolare di far passare quella che è la diagnosi della tempesta. La tempesta della diagnosi, che è spesso un evento traumatico di per sé. Può superare insieme. Grazie dottor Parla, la saluto, grazie al professor Maio per essere stati con noi. Bene, noi abbiamo terminato, ma ritorniamo qua regolarmente domani alle 10.30. Grazie a Marco Lombardo, Laura Vanossi e Carmelo Lauricelli in regia. A tutti, buona giornata.